Il clamore dato dalla stampa americana e da quella di altri paesi alle terribili immagini delle torture inflitte ai prigionieri di Abu Ghraib ci ha un po' sorpresi. E di occasioni per alzare la voce la stampa americana e anche quella italiana in realtà ne avrebbero avute una iosa, sia per quanto accadeva nei campi di Guantanamo, i cui orrori erano noti a tutti, e sempre per non tornare al passato. Citiamo il Guatemala, altro luogo di grandi orrori, o El Salvador, ma la stampa tenne allora per il padrone, fece in modo che tutto continuasse in realtà come prima. E adesso, in questo momento, la stampa americana in gran subbuglio invece dice di aver scoperto soltanto adesso quello che accadeva praticamente, mentre sembra che tutti fossero in realtà a conoscenza di quali mezzi illeciti venissero usati per mantenere il cosiddetto ordine anche all'interno dell'America e non solo quindi nei paesi in cui è presente l'esercito americano. Ad esempio i giornalisti di Chicago hanno taciuto per ben oltre 20 anni sulle torture inflitte agli afroamericani che venivano portati al comando centrale di polizia per essere interrogati. 12 di questi vennero, che risultarono peraltro poi innocenti, sono stati condannati alla pena capitale per reati che mai avevano commesso, e dopo aver subito torture simili in tutto e per tutto a quelle subite dai poveri prigionieri di Abu Ghraib. A Chicago e in tutto l'Illinois la stampa era perfettamente informata delle sofferenze inflitte dalla squadra del famigerato John Burge ai cittadini americani, ma si trattava di cittadini che in realtà nessuno aveva interesse a difendere, perché erano tra quelli che la società opulenta, come dice Mumia Abu-Jamal, piazza all'ultimo posto della scala sociale. In moltissimi casi lo Stato, e quindi con l'ausilio della stampa, è andato in soccorso del colpevole, non della vittima, tanto che le autorità di Chicago, sostenute dalla stampa, hanno speso cifre considerevoli per scagionare gli agenti da ogni responsabilità. Lo stesso accadeva nell'Indiana, quando è stata scoperta una squadra di agenti dedita alla persecuzione di omosessuali. Le orribili immagini di Abu Ghraib denunciano soprattutto due cose: che esiste una correlazione tra il militarismo e i metodi usati dalla polizia all'interno degli Stati Uniti, e che poi solo le immagini hanno potuto costringere la stampa americana a prendere una posizione quando proprio non ne ha potuto fare a meno. Qualcuno è stato punito, Ivan Fredericks, una delle leve minori dei torturatori di Abu Ghraib, salterà forse, si dice, qualche testa al Pentagono, poi tutto tornerà come prima, a meno che non si facciano i giornalisti un esame di coscienza, a meno che non smettano di trattare con i guanti bianchi sia gli abusini di Abu Ghraib che i poliziotti che applicano la legge usando la violenza come unico metodo. Poiché abbiamo già una stampa dei padroni, e lo sappiamo bene noi italiani, forse è venuta l'ora di fare adesso la stampa e l'informazione della gente. Da Bianca Cerri per Reporter Associati e Amisnet.